Sì. Sarò l'ultimo pensiero di un condannato a morte, il siero della verità che vi aprirà le porte, blu che dona e risalta, il panico negli occhi. Senti come suona sta campana, ascolti i suoi rintocchi. Ci rivedremo all'inferno e non vedo l'ora. La vendetta è un piatto cucinato nel vaso di Pandora, pluristellato, ma aspettare mi divora. Mi armo di pazienza ammazzando il tempo fino ad allora. Resto solo con i miei screzzi, con i miei testi solo, con i miei pezzi, con i miei resti. Hai portato una pistola d'acqua in questo scontro a fuoco. Cosa volevi spegnere? Questo non è un gioco. Ho rime come proiettili, la bocca è una mitraglia. Ho perso il porto d'armi e forse più di una battaglia. Ancora non mi sono arreso, non accetto una sconfitta. Io sono l'ultima ad arrendersi, la gente stia zitta. Frega un cazzo, frega un cazzo, da più di 30 anni che non sono più ragazzo. Sarò pazzo, ma l'ultimo ad arrendersi ed il primo a farsi mazzo. Frega un cazzo, da più di 30 anni che non sono più ragazzo. Sarò pazzo, ma l'ultimo ad arrendersi ed il primo a farsi mazzo. Ok, faccio finta che non sia cambiato un cazzo, ma è cambiato tutto. Non sono più ragazzo, sono un sacco di pelle ripieno di ossa. Se fossi un ribelle, sarei nella fossa. Sono un caro amico e mi davi per scontato. Ho alzato il prezzo, sei stato accontentato. Sono una brutta persona, puoi dir giuro. Scontrosa, maleducata e in più manda a fanculo. E non chiedo scusa per quello che scrivo, quello che faccio. Le mie scuse sono solo per quello che taccio. Scherzo ancora, sia ben chiaro, ma non mi fotti più. Soffro ancora e regalo a questa pelle attrita tu. Così la mia storia sarà incisa nella carne per non cancellarla. È una promessa con il sangue, c'è un prezzo da pagare. Il più delle volte è caro, il rispetto non si compra. Per questo è molto raro. Frega un cazzo, da più di 30 anni che non sono più ragazzo. Sarò pazzo, ma l'ultimo ad arrendersi ed il primo a farsi mazzo. Frega un cazzo, da più di 30 anni che non sono più ragazzo. Sarò pazzo, ma l'ultimo ad arrendersi ed il primo a farsi mazzo.